La gestione risposta, adesso entriamo, diciamo, in medias res, nel senso che finalmente risolte tutte le questioni preliminari. Abbiamo un amministratore delegato che è un signor professionista, abbiamo questa decisione bello brutta sui terreni e quindi possiamo capire che cosa succederà dell'Expo, come si svilupperà e soprattutto che cosa lascerà. La storia dei poteri da commissario concessi al sindaco Moratti sicuramente è molto significativa perché dimostra che in Italia, ribadisce che in Italia purtroppo per via ordinaria si può far poco e in fondo l'Expo era stata richiesta da Milano proprio per questo, per dotare Milano di quelle infrastrutture che non ha, perché per le vie ordinarie, con i finanziamenti ordinari e con le procedure ordinarie in Italia ormai non si riesce a combinare nulla. Quindi occorrono dei poteri straordinari, occorrono degli eventi straordinari. Speriamo che questa sia la volta buona per Milano.